140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale, ogni giorno su Twitter, seguendo il mio account @MartaCagnola o con l'hashtag #cancelletto140caratteri. Ci avete cominciato a mandare in diretta via Twitter le vostre domande? Ecco gli spettacoli di questa settimana dalla viva voce dei protagonisti. Teatro degli Arcimboldi, Milano. Quest'anno festeggiano il traguardo delle 100 puntate in televisione. A teatro fanno sempre il sold out, Bisio, Cortellesi e la banda di Zelig. Claudio, Paola, quest'anno tante novità, comunque tanti duetti, un po' moderni e un po' retro, è così? Direi di sì. Sì, hai già risposto tu, scusa, hai fatto la domanda già con la risposta. Allora, noi dovevamo dire cosa farete noi. Faremo dei duetti nuovi, ma anche un po' retro. E sarebbe stata una risposta perfetta. Invece, con la musica adesso, sotto di Paolo Iannacci, la sua band improvvisata. Una con i costumi, di... Guarda, ci piace molto ispirarci ai numeri non già fatti, perché poi devo dire sono originali grazie anche alla proposte di Paolo Iannacci e di Rocco Tanica come autore musicale, ma ispirarci al varietà, al grande varietà, che è una cosa che devo dire noi italiani sappiamo fare bene, no? E quindi il numero musicale ben costruito è una cosa che soprattutto dal vivo rende anche, molto. Anche il repertorio lo peschiamo, cito dei nomi a casaccio, senza dire quando e come le faremo, ma da Beyoncé, Jay-Z, fino al Quartetto Cetra, o viceversa, dal Quartetto Cetra a Beyoncé, sì, visto sì. Che cronologicamente vengono prima, ci sarà un Crava Belada che fece appunto... Johnny Kramer con... Un balletto di Don Lurio e Lola Falana. Che se lo vedete su YouTube, che è Testa Spalla Baby One. Testa Spalla Baby One, Two, Three, Testa Spalla Baby One. Non lo impareremo mai, però ci stiamo provando. È uno scioglilingua fisico e di parola. E mentale anche, sì. Testa Spalla Baby. Testa Spalla Baby. Testa Spalla Baby. Cola Cola Baby One. Cola-Cola, baby, one, two, three. Cola-Cola, Cola-Cola, test the spotlight, baby, one, two, three. Pull the dagger, baby, one, two, three. Pull the dagger, baby, one. Zelig festeggia numeri molto importanti. Eh sì, è un traguardo, poi l'anno prossimo sarà il decimo anno, quindi cioè ogni anno ce ne sono ormai di traguardi. Questo però ci fa particolarmente piacere, 100 puntate, già quest'anno farne 15 mi sembra una maratona, l'idea di averne fatte prima 98, 99, fino ad oggi altrettanto. La cosa che ci rincuora, che mi rincuora molto è vedere anche oggi sul palco la presentazione di questa nuova edizione, tutti i comici, che anche quelli della prima ora che torna, cioè ci sono alcuni che non ci hanno mai lasciato, Raul Cremona, Leonardo Manera, Mr. Forrest, sono sempre rimasti, e qualcuno invece è tornato, tipo Max Pisu, Ale Franzi, Pali Dispari, è un piacere. Quest'anno Zeli farà un imprenditore che è andato a produrre all'estero, perché un imprenditore veneto che è andato a produrre all'estero perché in Italia è tasso, te strangola, te soffoca, te strigola, no, è troppo complicato, non si può, il governo, il Mario Monti, ti chiede tasso ma non ti dai servizi, no. E allora sono andato a produrre all'estero a Samoa, perché i lavoratori samoiardi non hanno pretese che hanno i lavoratori italiani, che pretendono le ferie pagate, lo stipendio a tredicesima, noi a Samoa la tredicesima la diamo uno ogni 13 operai, e parla di... Straordinaria attualità ovviamente. Sì, sì, l'idea è quella, insomma, è un personaggio che secondo me esiste nella realtà, poi in questo periodo, insomma, si parla proprio di imprenditori veneti e lui è uno che è insoddisfatto della situazione italiana, anche con un po' di demagogia e di populismo va a produrre all'estero per risparmiare sul costo del lavoro. Quindi insomma leggi giornali e ti ispiri da lì? Sì, in realtà sì, poi la comicità nasce sempre dalla realtà, no? Poi la si cambia un po', la si estremizza, la si modifica, però lo spunto è sempre la realtà, anche per in qualche modo esorcizzare i problemi della realtà. Grazie. Finalmente quest'anno mi sento ottimista e vorrei parlare delle cose belle della vita, per esempio la solitudine. parte che nella vita siamo sempre amici, però sai, spesso le carriere prendono strade diverse, uno guarda, magari può esserci l'invidia, ah, quello lei. Devo dire, non per fare retorica, ma mi sembra che tra di noi non ci sia questo tipo, no? No. Anche quando uno ha un successo altrove, da Zelig, fa Striscia la Notizia, fa il suo programma, fa il film, vedi che è col Salone, poi tornano qua. Torniamo, siamo qua. Torniamo, infatti. Una cordialissima buonasera ai cittadini che tutti i giorni respirano quest'aria milanese e un definitivo ciao ai loro polmoni. Cominciamo bene, ciao ai polmoni. E naturalmente un madido abbraccio a lei, Lisio, sì. Un viscido pagliaccio. Ma perché continua a insultarmi, scusi? Che cosa le ho fatto? Ah, che lurida birba! Lo sa che provo ammirazione per il vostro sozzo mondo di Guitti. Sozzo mondo di Guitti? La smetta di dire queste frasi. Se le piace così tanto, la invitiamo una sera. Guardi, Visio, non me lo dica due volte. Una sera faccio tutte le vaccinazioni e corro lì da voi. Ma che vaccinazioni? Non siamo mica contaminati. Ma voi comici, praticate sempre il cannibalismo? L'anno scorso Moratti, Santanchè, quest'anno l'Italia, corretto il tiro, lo farete anche voi? Eh beh, no, certo che non ci sono perché non sono più attuali, e quindi quando stai sull'attualità devi stare sull'attualità, se non è più attuale non lo puoi più fare. Stare sui personaggi, l'abbiamo anticipato in conferenza stampa, ma insomma fare parodie in questo momento su questo governo, che è un governo giovane perché c'è da poco tempo e non per età forse, ma insomma un governo di tecnici, di persone che non sono personaggi perché non hanno uno storico, no? Anche nell'esibirsi come politici, è chiaro che insomma, è più complicato, perciò in questo momento siamo senza basi, però ne troveremo. Mi spiace, io avevo pronto un Tremonti, cioè, come facevo Tremonti io? Lo facevi veramente. Buonasera, è una cosa per... No, vi prego, allontanatevi. Giulio Tremonti, ministro. Può essere pericoloso. Economia. È una cosa inascoltabile. È detto da una collega che fa imitazioni, è un onore. Ma sei detto inascoltabile? Sì, inascoltabile. Sembrava fosse un complimento. Grazie, Fiato Porti, Claudio Emola. Via, via, via. Lei è un cialtrone. Grazie. Via, via. Allora, Monti arriverà a Zelig. No, Zelig si conferma essere quel prodotto straordinario che è, quella trasmissione unica e vera di Cabaret, nel quale vecchi protagonisti come me e tanti altri giovani consegneranno al pubblico quelle risate di cui abbiamo bisogno in questo 2012. Merda. Senti, ci vuole un po' di magia per trasformare la situazione dell'Italia? Io dico sempre che il prestigiatore non è sufficiente, perché il prestigiatore fa dei giochi, qui ci vogliono dei miracoli. Notte di bracca, è musica che cresce, megalopoli che spacca in questa... Cuneo. Splendida città nel Piemonte, col sole di fronte, parlo di Cuneo. Quest'anno c'è stata tanta comicità in televisione ed è andata molto bene. Voi come vi ponete di fronte a questa cosa? Siamo felici. Siamo contenti, va bene. Ci sono state tante proposte diverse quest'anno, ma ce n'erano anche già dagli altri anni. Non è una cosa solo di quest'anno. Quest'anno c'è la novità, e non è una novità, che è tornato in TV Fiorello. Non è una novità nel senso che Fiorello ha questo grandissimo e meritato, aggiungo, successo già da tantissimi anni. E ci sono tante proposte, ben vengano, come dire, con una matrice differente, e insomma fa bene, quando le cose sono fatte bene fa piacere vederle, soprattutto quando sono fatte da, come dire, persone che fanno quel mestiere. Se la comicità è volontaria è sempre ben accetta, quando è involontaria ti dispiace un po'. Ciao, ciao ragazzi, ci vediamo, ci sentiamo. Date piano. Andate piano che avete bevuto, andate piano. Caspita, che bello rivedere i compagni del Superiore dopo tanto tempo. Dobbiamo rifarle le cene così, oh, guarda che è bellissimo vedere i nuovi compagni del Superiore. Ma è bello perché poi vedi i segni del tempo che passano, capito? Vedi le cose come sono cambiate. Io, guarda, la roba. Ma chi era quello che continuava a dire come va, tutto bene, tutto a posto? Con chi era in banco? Ah, il padrone del ristorante, scusa. Zelig, torno a Zelig dopo 5-6 anni, quindi va bene. E in una puntata si farà, siccome sarà una puntata celebrativa, si rivedrà Tarcisio e dopodiché farò le cose nuove che ho portato nello spettacolo teatrale, quindi insomma è un piacere portarle in TV e farle conoscere al pubblico. Quindi. Però quindi insomma alla fine Tarcisio rimane nel tuo cuore? Tarcisio Anna è il mio cuore, come anche del pubblico, lo vedo nelle serate, durante le serate, insomma, anche la gente è ancora affezionata, quindi mi fa piacere portarlo in TV per un saluto, dopodiché via spazio al nuovo Max. E avete ribaltato lo stereotipo della romana e del milanese, è lei quella precisa? Porca miseria, io sono un cialtrone, sono più asso romano, mi sento romano dentro. Come faccio il romano io? Malissimo, ma quasi come Tremonti. Buonasera! Asso romano. 140 caratteri, una settimana di spettacoli. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa, teatro e cinema, nella seconda parte del nostro 140 caratteri. Teatro Manzoni, Milano. Luminosissime star TV tornano in teatro da dove hanno cominciato. In Due di noi impersonano tante coppie. Emilio Solfrizzi, Lunetta Savino. È molto divertente, una bellissima sfida che mi aveva molto impaurito all'inizio. Prima raccontavo di quanto durante le prove ci siano stati momenti, come dire, di scoramento, perché il testo è veramente molto difficile. Proprio una bellissima sfida che adesso, dopo le anteprime da Pistoia in poi, l'affetto del pubblico e l'esito proprio dello spettacolo, insomma, mi trova una persona assolutamente felice della scelta del testo, della scelta della compagnia con cui realizzarlo e di Leo Muscato come regista. Io penso che la gente avrà modo proprio di divertirsi durante questo spettacolo. È un divertimento assoluto, ma anche un rischio continuo, perché devi essere presentissimo in ogni momento, questo sempre a teatro ovviamente, però tanto più quando cambi personaggio all'interno dello stesso spettacolo. Io ne faccio qui 5. Per cui non è poco, insomma, no? E quindi c'è il panico, per esempio, dietro le quinte, quando devi uscire di corsa, cambiarti completamente dalla testa fino ai piedi, insomma, dalla parrucca fino alle scarpe. E poi rientrare e sei un'altra. E sei un'altra nel modo in cui cammini, nel modo in cui parli. E in pochi minuti devi restituire la particolarità di quel personaggio. Quindi per me è come proprio tornare alle origini, insomma, ai motivi principali che mi hanno spinto a fare questo lavoro, che sono proprio quelli del travestimento, della trasformazione, no? Sì, pensa, mia moglie diceva che io ero un tipo ossessivo, ah? Ero un tipo, ero fissato, tanto fissato, ossessivo. Ah, guarda, anche la mia collassa, cioè la collassa con la quale esco adesso, no? Perché tu esci con le collasse. Però la cosa che mi divertiva, per esempio, dopo i primi tempi del Medico in Famiglia, che la gente mi fermava e diceva: guarda, ma è proprio lei, la stessa voce. E dico: è certo, perché sono io che la faccio. Però non corrispondevo affatto a quel personaggio lì che poi facevo in televisione. Ma quando tu riesci a restituire una credibilità umana a un personaggio, gli dici, la gente ti identifica con quello perché... come dire, no? Gli hai dato un'umanità. Ma quanto dureranno questi avanzi della comunione? C'hanno ragione, ragazzi. Eccomi qua. Ho portato dei dolcetti. No. Beh, sì, li avevo tenuti come rinforzo nel caso che le cose non bastavano. Ancora dolci? Ma Cettina, adesso mi sembra un'esagerazione. No, ma ci sta pure insalato. Ma sta arrivando a gusto mio con una pizza al formaggio. Abbiamo citato Il Medico in Famiglia, Emilio con Tutti i pazzi per amore. L'essere diventati famosi grazie alla televisione vi ha dato qualche possibilità in più in questo mondo del teatro, che è un po' avaro in Italia? A me assolutamente, cioè io questo volevo fare la protagonista a teatro, come si dice, no? Quando si dice fai cartellone, volevo arrivare a questo, ed è stato grazie alla televisione, per cui io sono grata, assolutamente grata all'occasione televisiva, che probabilmente, perché chissà, è tutto sommato mi piacerebbe che i registi di teatro, insomma, che fossero un po' più aperti, no? Anche più curiosi. Bisogna cambiare, cioè appunto anche bisogna cambiare squadre, non lavorare sempre con gli stessi, sennò che gusto c'è? Amore, sono incinta anch'io. Scherzavo, era una battuta. Non è mio marito, no. Che è successo? non dico niente di nuovo, raccontando di che è ovvio che una visibilità, una buona visibilità aiuti la gente a venire a teatro, nel senso che quantomeno il personaggio è riconoscibile e se lo hai amato per le cose che ha fatto, magari il piacere di andarlo a vedere è maggiore. E certo è che, come dire, questa visibilità si deve costruire o deve essere stata costruita su un credito, insomma, e quindi aiuta nettamente. È ovvio che io mi auguro anche che gli spettatori, poi venendo a teatro, non vogliano ritrovare, come dire, i beniamini che pensano di dover ritrovare in virtù della televisione, del cinema o quant'altro. Quindi mi piace se questo aiuta la gente a venire a teatro, li aiuta a mettersi il cappotto, a sopportare il freddo, a mettersi in macchina, a trovare parcheggio, a pagare un biglietto per venire a teatro, ma poi mi auguro anche che le stesse persone non si facciano, non precostituiscano dei giudizi, e mi piace che, insomma, vengano a vedersi lo spettacolo con la gioia di passare una serata divertente e piacevole. Domande che mi sono arrivate via Twitter: tornano Toti e Tata? Torna Tutti Pazzi per Amore? No, Toti e Tata non tornano, ma non tornano Toti e Tata, sono tornati, per esempio, tornano Antonio ed Emilio. Antonio ed Emilio l'anno scorso, anzi per 2 anni, insomma tutto il tempo libero che abbiamo avuto, abbiamo portato in giro uno spettacolo che si è chiamato Il Cotto e il Crudo, che ha avuto un successo, anzi mi vergogno a dirlo, proprio clamoroso, con uno spettacolo molto bello, proprio scritto da entrambi, e che lo dico molto bello perché ho capito di averne fatto uno buono tra tanti magari di meno di minor qualità. Questo invece era una bellissima riflessione su chi siamo, a che punto eravamo arrivati, si è riferito ad un pubblico soprattutto meridionale che ci conosceva personalmente, per cui abbiamo potuto anche addirittura giocare tra di noi. Scusi, di nuovo le poesie per caso? Dunque, io oggi non volevo venire. Come mai invece ci ha fatto la grazia di tornare, bel giovane? Niente, stavo a casa, a un certo punto ho pensato. Loro non possono vivere senza poesia. L'ultima domanda, io non ti posso dire tutto il nome perché è Silvia, ma non posso dirti il nome perché scrive: gli puoi dire che lo amo, lo adoro e sono disposta a lasciare mio marito per lui. Io mi auguro che il marito non legga questo messaggio, anche perché se fossi il marito sarei io a lasciare lei subito. Spazio Pergolesi, Milano. 30 anni di carriera fin dagli inizi, poi una lite. Ora tornano a far musica insieme, Grande Nazione, il nuovo album. Piero e Ghigo, i Litfiba. Parla di orgoglio, Grande Nazione, però dei testi che parlano di un certo malessere. Beh, noi non siamo semplicemente orgogliosi, noi siamo orgogliosi e incazzati, perché tra il fatto che l'Italia sia una grande nazione e il fatto che non riesca ad esserlo per colpa di una casta di persone di malaffare, ci corre tanto, e purtroppo ci rendiamo conto che se noi cittadini non prendiamo in mano il nostro destino, rischieremo di essere schiacciati dagli interessi di pochi. Un disco nato sull'entusiasmo di un tour, e quindi un disco nato un po' d'artigiani, avete detto? Sì, sì. Allora, diciamo che il disco è stato composto nelle pause di varie tournée. C'è stata una prima fase, dopo una tournée abbiamo accettato una prima fase di composizione, poi abbiamo fatto un altro tour, poi c'è stata un'altra fase di composizione, e così via. E chiaramente questo tipo di composizione è andata a finire su Solchi, infatti ci piace dire che il disco con i BPM è la velocità più veloce di tutta la nostra storia. E anche quello, forse con un grande entusiasmo, quello di essersi ritrovati, vi fanno un sacco di domande su questa cosa, vi fa piacere o vi dà fastidio? No, ci fa piacere, l'entusiasmo in ogni caso c'è. È indubbio, anche perché sennò non sarebbe andata a finire io dico sempre Solchi, veramente bisognerebbe dire i numeri adesso. Ma esce anche in vinile il disco, quindi è giusto dire Solchi. La mia valigia, casa perfetta, il massimo dal minimo, indispensabile, note parole, rimedi del cuore, e vivere in viaggio è un atto d'amore. Poi una attenzione ai ragazzi e ai ragazzi che sono scappati. Anche questo si ritorna ancora alla grande nazione, che in questo senso è un po' traditrice. Sì, non si sta parlando di latitanti delinquenti, ma semplicemente di persone che sono state costrette a uscire dall'Italia perché non riuscivano ad esprimere in Italia tutto quello che avevano costruito con i loro anni di studio o con la loro esperienza lavorativa. E quindi si sta parlando di, appunto, di Cervelli in fuga, che è il documentario anche degli che amici. Parla del nostro tour. Io ho mio caro amico. Caro amico, che è un tecnico informatico spaventoso, che dove è andato a lavorare, Amsterdam, la Tontoma. Se non in Italia, ragazzi, è dura. È tutto per il primo appuntamento con 140 caratteri. Per scoprire in tempo reale tutta una settimana di spettacoli, basta seguire il mio Twitter, @MartaCagnola. Per ascoltare 140 caratteri, l'appuntamento è domenica prossima, sempre alle 8:30.